say that looking at the calendar, today is a very special day. Today is Chai Kislev, Yudches Kislev, and it's a day before Yudches Kislev, but it's also the yahrzeit of my mother-in-law, Batya Devora. Anniversario. Yeah, of her, that she passed away in the year 2001, that her neshama should have an aliyah, and the shiur that I'm giving today is going to be in her honor. Allora dedica la lezione in memoria della suocera che oggi è la ricorrenza. I'm very, very interested, as Rabbi Chazan knows, I was speaking to him yesterday, I'm very interested in history of the Jewish people and history of our great tzaddikim, the ones who wrote all these wonderful books of Torah. And I heard a lot about Romi, about the Jews of Rome. And I also understood that the Jews of Rome were like a class on their own. It was usually people include everybody. You have Ashkenaz. You have the world of Ashkenaz, and Italy belongs there also. And that's the way 99% of the Jewish people think. I know different. I know that Italia is a class of its own. You have Ashkenaz, and then you have Italia. And I also know that they had a special Sidur, but I never saw the Sidur. So today, I have a very short attention span. It's hard for me to daven. However, I was looking into the Sidur, and I hear the way Rabbi Chazan was saying one way, but I'm looking into the Sidur, and I was very impressed. Now I think of myself much greater. I always thought I was a great guy. But now I think I'm much greater, because in my nusach is Allah Tzadikim ve'Allah Hasidim. And this nusach comes first, Allah Hasidim, then Va'ala Tzadikim. Right, so I'll just translate a little. So innanzitutto, lui, essendo un grande appassionato di storia ebraica e la storia dei Chachamim di tutte le generazioni, ha anche un'opera ancora non pubblicata su questo, che ha sempre saputo che l'ebraismo romano e italiano è comunque come una modalità, diciamo così, a parte, cioè nel mondo non si sa che Ashkenazita non include necessariamente ebraismo italiano. Si dice Ashkenazita sefardita e si crede che questo è tutto l'ebraismo. In realtà l'ebraismo italiano è distinto. È a sé. Sì, esattamente. Quindi sapeva dell'esistenza della tefilà Beneromi che noi usiamo qui, ma non l'aveva visto. E ora vede che, per esempio, si fa precedere alla Hasidim, alla Tzadikim, i Hasidim prima dei Tzadikim. Nel nostro rito, altri riti, c'è scritto Tzadikim e Hasidim. Allora dice, allora siamo ancora più importanti secondo i Romani. Allora. Anyways, I'm going to speak to you today about the Rambam. If I speak too long, let me know. Quindi parleremo del Rambam, del Maimonide. I don't know if you mentioned that I wrote a book on that. I did, okay, yes. Fine. So, the Rambam wrote, basically, he wrote many books, but the two, what we call magnum opus, the two most important books, are Mishneh Torah and Moreh Nevuchim. Those are the two. Allora, i due libri più importanti del Rambam sono Mishneh Torah, che è l'opera di Halakha, e Moreh Nevuchim, la guida dei perplessi, che è un'opera di filosofia. Now, the Rambam wrote Mishneh Torah. The Rambam was born in Spain, but then he moved to North Africa, to Fez, Morocco. Then he moved to Israel for 6 months. Then he moved to Egypt. He wrote his other explanation on the Mishnah while he was in North Africa, and he finished it off, I think the last Seder Taharis, he finished off in Egypt. However, the Mishneh Torah he wrote entirely in Egypt. The Jewish people looked at the Mishneh Torah and they decided to give another name to it. The Rambam called it Mishneh Torah, but they decided they have to do something different. Jewish people are always different people. So they have to do something different. So they called it Yad HaChazakah. They have to call it the strong hand. Go ahead. Allora, in breve, il Rambam è molto conosciuto per queste due opere. Lui è nato in Spagna, poi è arrivato in Nord Africa, in Marocco, poi è stato in Israele solo per 6 mesi e poi è tornato giù in Egitto. L'opera del commento alla Mishnah, Pirusha Mishnayot, che è un'altra opera, lui già ha iniziato a scrivere in Spagna e in Nord Africa, ma l'opera Mishneh Torah l'ha completamente scritta in Nord Africa e lui gli ha dato il nome Mishneh Torah, ma gli ebrei tradizionalmente lo chiamano con un altro nome Yad HaChazakah. The reason it's called in Egitto. Prima in Marocco. I'm not going to get into the many different reasons why they called it Yad HaChazakah. But I'll tell you just briefly. Some people call it Yad HaChazakah. Most people, it's a compliment. Why? The very last pasuk of the entire Torah, L'chol HaYad HaChazakah Asher Asa Moshe. Moshe. Da dove viene il nome Yad HaChazakah? What was the name of the Rambam? Moshe. So they're saying, Yad, why Yad HaChazakah? Yad HaChazakah means a strong hand. But why are they saying Yad HaChazakah? Because the Mishnah Torah is divided into 14 books. Yad, Yud, 10, Dalet, 4. Put together, 14 books. Yad HaChazakah, Asher Asa Moshe, Leinei Chol B'nei Yisrael. The very last words of the entire Torah, they said is a wonderful compliment to the Rambam. Other people said, no, not so good. The Rambam, what he was doing was too courageous, was too ambitious. They said, it's a Yad HaChazakah of the Rambam, but not such a good idea, actually. But you want to just translate? Qual è il senso del nome Yad HaChazakah? Sembra che sia un grande complimento, perché l'ultimo versetto della Torah, Vezot HaBerachah, conclude con, elogiando Moshe Rabbeinu, dicendo che lui ha fatto fare grandi opere, miracoli, eccetera, Ulechola Yad HaChazakah è la mano forte che ha dimostrato, Asher Asa Moshe, che Moshe fece, e il nome del Rambam è anche Moshe, Leinei Kol Israel, agli occhi di tutto il popolo di Israele. Allora è come dire, guarda che bellissima cosa che fece questo nuovo Moshe, Maimonide, agli occhi di tutti, con anche la il valore numerico dei 14, 14 volumi del Mishneh Torah sono allusi nella parola Yad, perché Yud Daled, 10 e 4 è il valore numerico, quindi Yad HaChazakah, che Moshe fece questa grande opera di 14, che rappresenta una grande cosa agli occhi di tutti. Quindi è come un complimento questo. Now the Rambam was a genius. He was a genius, so everyone who looks at his words can see that he was a genius. He was brilliant, he was courageous. He did things that nobody ever did before. They say, Mimosha ad Moshe lo kam kamosha. From Moshe Rabbeinu until the Rambam, there was no one like Moshe. So they're comparing Moshe the Rambam to Moshe Rabbeinu. The difference is, Moshe Rabbeinu, Rabbeinu Moshe. Same name, just the difference. The Shalah, the great Shalah, Rabbi Shai Halevi Horowitz says, add up the numerical value, the gematria of Moshe Rabbeinu, you know what you get? Quick, everybody. What do you get? Too quick. Too quick. 613. 613, very interesting. Okay. Okay, allora... come? 603. Do we have to translate? Sì, sì, sì. Il Rambam era un grandissimo genio, una persona molto, molto... capace a livello intellettuale e fece molto ambizioso, molto coraggioso anche nel fare, nell'esporre opinioni e opere che nessuno avrebbe mai fatto prima, e addirittura si dice da Moshe a Moshe non ci fu nessuno come Moshe, da Moshe Rabbeinu il primo a Rabbeinu Moshe Ben Maimon, che noi chiamiamo Rambam, non c'è nessuno di questa grandezza addirittura. E tra l'altro uno dei grandi autori, Shalah, Shnei Luchot HaBrit, Rabbi Shaya Levi Horowitz, scrive che Moshe Rabbeinu ha lo stesso acronimo di valore numerico di 613, che corrisponde a tutte le mitzvot. Questa è una cosa interessante, per parentesi. Okay. So Moshe, the Rambam Moshe was a genius, but he was a genius also in categorization. How do you say that? Categorizzare. Okay, that's what he was a genius with. Till this very day we don't have people like that. We don't have people like that. We have people nowadays, they like to learn the Talmud, they like to study, but to sit down and to work out how exactly to categorize where I'm going to put what, the Rambam spent much time doing that. And I don't know if anyone learned philosophy. I personally did not learn philosophy, but I know that the Rambam was a very big student of Aristotle. And I also understand from other people that Aristotle was also very much into categorizing things. And the Rambam decided very carefully how he's going to write, how he's going to categorize all these laws, put them in the right place. Ok, allora una delle cose più grandi del Rambam è la sua capacità nel genio, che è difficile trovare in tutte le generazioni qualcuno che ha fatto questo, cioè la capacità di definire bene le categorie, categorizzare le cose, tutte le varie, i vari aspetti sia dell'Halakha che altre cose nella giusta maniera, che è una delle cose più difficili. Il Rambam era un grande filosofo e un grande allievo, non nel senso letterale, di Aristotele, e anche Aristotele è conosciuto per questa capacità qui di voler sempre categorizzare le cose in maniera giusta, definire, fare delle definizioni chiare di ogni aspetto. E nella sua opera Mishneh Torah, che è un'opera di Halakha, non è un'opera di filosofia, comunque vediamo anche in questa opera che lui ha messo tantissimo pensiero nel modo in cui ha definito le Halakhot e nella maniera in cui le ha categorizzate in vari volumi e varie sezioni di volumi, eccetera. So today what I'm going to give you is a little taste of how he categorized things. And I was also this past Shabbat, I was perplexed. That means I was confused. And I was trying to understand, because the Rambam just writes what he writes, but trying to understand why did the Rambam do such a thing. So I'm going to give you a little taste of it, and I think that you'll like it very much, and it will give you a little insight to the world of the Rambam. Ok, allora lui adesso ci farà una dimostrazione piccola di questa cosa, che dice che lui era rimasto perplesso da un modo in cui il Rambam ha scritto, perché il Rambam scrive, non spiega il perché scrive in questa maniera, rimane a noi approfondire e capire, entrare nel suo mondo, e questo è quello che ci aiuterà a fare, e troveremo uno spunto interessante. When we write a letter, we write, and the Lubavitcher Rebbe taught us, we should always start the letter with Baruch Hashem. Okay? Start with that Baruch Hashem. In the days of the Rambam also wrote Baruch Hashem, but a little different way. He wrote, B'Shem Hashem Kel Olam. That's the way he started. B'Shem Hashem, just like Avraham Avinu. He talks about Avraham Avinu went out to the world to spread Judaism. Avraham Avinu was the first Lubavitcher Chassid. So the Rambam was also Lubavitcher Chassid. So B'Shem Hashem Kel Olam. And that's really how he starts over here. Every book of the Mishneh Torah, as you could see over here, it's not written B'Shem Hashem Kel Olam, because for some reason the Rambam La'am decided to take it out. But in the original, in the original of the Rambam, every single sefer begins B'Shem Hashem Kel Olam. Okay. Allora, così come oggi noi iniziamo una corrispondenza dicendo prima Baruch Hashem o Besiata Dishmaya con l'aiuto di Dio, eccetera, anche al tempo del Rambam, anche lui faceva così, però usando un'altra formula. In ognuna delle 14, dei 14 volumi del Mishneh Torah, lui apre con la dicitura Beshem Hashem Kel Olam, che significa al nome di Dio, Signore del mondo, che sono le parole che la Torah dice che Avraham fece, e cioè Vayikra Avraham Beshem Hashem, Avraham fece sì che la gente parli con il nome di Dio, cioè che menzioni il nome di Dio, che la gente parli di Hashem e che siano coscienti del monoteismo, eccetera. Lui con questo versetto, Rambam, apre ognuno dei 14 volumi, Beshem Hashem che è l'Olam. You skipped. Which Avraham Avinu was the first of Avraham. See, this they understood. Yeah. Okay. This everybody understood. Everyone understood. Okay. So now, besides for that, the Rambam was also a poet. He's multifaceted. He was also a poet. And he did something that Jewish people are not known to do that. And he picked a pasuk to begin each sefer. And he doesn't write why he picked that pasuk. So we have to think to ourselves, why did he pick this pasuk? Very interesting, because every pasuk of the 14 psukim that he picked, actually 15, first one, every single one comes from Mishlei or Tehillim. I don't know why, but he picked those psukim. Okay. The one that he started here, Meshach Hasli Yodach, Mitzik Hasli Yisraeli. Okay, allora, il Rambam era anche un poeta, che è un altro aspetto del suo carattere molto molto interessante. Lui scelse, oltre a dire Beshem Hashem, a nome del Signore, apriamo questo nuovo libro, scelse anche un versetto come una seconda introduzione al libro. Tutti i versetti che lui sceglie sono 15, una è l'introduzione e 14 per i 14 volumi, sono o del libro di Mishlei, Proverbi, o del libro dei Teilim, dei Salmi. Il libro con cui apre il versetto con cui apre il primo volume dei 14, che è il Sefer HaMadah, è Meshoch Hasecha li Yodecha v'sitkatcha li Yisraeleve, un versetto dei Teilim dove dice fai arrivare la tua chesed, la tua benevolenza, li Yodecha, a coloro che ti conoscono, e tzitkatecha, la tua giustizia, li Yisraeleve, ai retti di cuore. Okay. Allora Madah Yodecha, no? The first book is called Sefer HaMadah. Actually, they made a mistake. It's HaMadah. The first book is called Sefer HaMada. What is Mada? We call Mada in Hebrew, in Ivrit, we call it science. Mada is science, not science. It's really the knowledge of God. So basically, you could take it off. You could unplug. So basically, I'm going to tell you the first book. He starts off, Yisoda Yisodot V'amud HaChachmot Leida She'esham Matsui Rishon. The first thing, the foundation, is to know that there is God. The first four chapters, he talks about it. You could say, Achdut Hashem. Telling you, you have to really understand that God is one. God is nothing to do. He's not, we call it in English, anthropomorphism. There is no anthropomorphism. There is no physical attributes by God. The unity of God, he talks about. And then he goes through different ones. I'm not going to go in length. And he finishes off with Hilchot Tshuva. That's Sefer Hamada. How do you translate Hamada in English? Hamada. I think it's knowledge. Knowledge. That's what I think. Ok, perché Madà in ebraico moderno è scienza. Però lui, in Maimonide, quando chiama il primo volume Sefer Hamada, intende il conoscenza generale. E apre con le leggi Yisodea Torah, le basi della Torah, e apre questa parte delle leggi della base della Torah con la conoscenza che esiste un'esistenza primordiale, che è quella divina, e che non è antropomorfica, e che non ci sono nessuna espressioni materiali del divino, eccetera, eccetera. Questi primi quattro capitoli sono dedicati a questo, e poi va avanti e conclude il libro Hamada, quindi il primo dei 14 volumi, con le leggi della Teshuva, Hilchot Teshuva. Hilchot Teshuva. So that's what the first book, Mada, is. The second book is, I thought, a very creative name. The Rambam was very creative. Like, did anyone, if I come along to you and I tell you, the Rambam wrote a book of love. How do you say love? Amore. Amore. What would you think the book is about? I'm asking you a question. The book of love. The great philosopher, the Rambam, wrote the book of love. What would that be about? What would be the content? I'm asking them. Quale sarebbe il contenuto di un libro che Rambam ha scritto che si è intitolato L'amore? Quale sarebbe il contenuto secondo voi? Pezzi frossi. Dipende. Avat Israel. L'amore divino. Someone says love between people, Avat Israel. Someone said love of God. The love of God. Okay. Someone says very spiritual. So what is he going to say? You're right. The answer is love of God. Your answer is correct. Who said that? William. Bravo. William Shakespeare. Okay. Like William, David. William Tell. King David. Okay, King David. So you're right. The book of love. Now continue. The love of God. Now continue. Tell me. The love of God. Continue. So which laws? What? No. Don't say that. Okay. Sorry. Continue. What do you think will be the love of God? So how do you express the love of God? Come si esprime l'amore di Dio? Cioè, va bene, amore, amore divino. Before, so explain. E poi come si esprime? Doing what he asks. Observing the laws. Observing all 613 mitzvot, yes? Quella è una delle cose che si può fare per... One of them. Which one? Quale è una delle cose? Questa qua dell'osservanza, rispettare. Quindi sono 613, non una. Sì. So it's all the mitzvot. All the mitzvot. So in the book of Ava is only the second book. So then he's finished. Però il libro di amore è solo il secondo volume, poi ce ne sono altri 12. So you can't quindi tell non me, è tutte le mitzvot. You can't tell me love of God in all 613 minutes because then it's finished. He has in more books. Che vale per tutti. So I'm going to tell you. I'll tell you. Allora solo inside you cannot tell mitzvot, not mitzvot. You could. I'll tell you. So the Rambam, what I said was a genius in categorization. What he did over here in Hilchot Tshuva, he's leading up. He connects what he's finishing off in one sefer to the beginning of the next. And in my sefer that's not printed, I explained how each sefer is connected to the next. The last perek, the last chapter in Hilchot Tshuva, he's introducing the next book, Ahava, and he's telling us that the love of God is more important than the fear of God. Why? Because if you understand, if you build up your knowledge, the Rambam is known as Rabbi Rational. If you build up your knowledge, knowledge is the most important thing according to the Rambam. And if you build up your knowledge, that will lead you to love God. If you don't have knowledge and you're only working on pure faith, it's going to finish. When the faith ends, nothing continues. Allora, Rav Moskowitz, nella sua ricerca approfondita delle opere del Rambam, è arrivato a capire che Rambam, nella fine di un volume, inizia ad introdurre il legame con il prossimo volume. Perché si è sempre pensato che sono semplicemente categorie separate, e quindi volumi diversi, però il Rambam in realtà lo fa in un determinato ordine con un determinato pensiero. Alla fine del libro Hamadai, il libro della conoscenza, che ci sono le leggi della Teshuvah, nell'ultimo capitolo delle leggi della Teshuvah ci aiuta ad arrivare, come ci dimostrerà, al concetto di Ahava, di amore. Per il Rambam, razionalismo è molto, secondo lui, la cosa più importante è la conoscenza, l'approfondimento, perché dalla conoscenza del divino si arriva all'amore del divino. Quindi da Amada, dalla conoscenza, si arriva a Ahava, all'amore. E ora ci dimostrerà come alla fine delle libro di Amadà, nelle leggi di Teshuvah, si inizia ad introdurre il concetto di Ahava, di amore, e come si esprime. So, what exactly, the Rambam finishes Hilchos Teshuvah, it's good to see now, and you say a person should not, because the ultimate is to love, right? Any of you married? Yes, some of them are married. Some of you are married? Yeah. Does your wife want you to fear her, or does she want you to love her? Love. Sometimes. Love. That's the ultimate. Sometimes. Okay, good. So, the Rambam goes to Sefer Ahava, and I was expecting when I was younger, first saw Ahava, wow, what a name and everything. I thought maybe Chassidut would be over there, Chovot HaLevavot, or something like that. But no, what's in Hilchos Ahava, Sefer Ahava? I'm sorry, so we're concluding the Sefer Ahava with Tshuva, right, because that's Yira. The end of Tshuva, he talks about Ahava. No. Okay. Nothing to do. The so end talks of about Ahava. He talks about Ahava, which is introduction to Sefer Ahava. Quindi già inizia a parlare dell'amore verso Hashem alla fine delle leggi della Teshuva, e poi entra nel libro stesso dell'Ahava, di amore. Cosa è incluso nel libro di amore? Vediamo quali sono le leggi so now sono he incluse. Tells me in Sefer Ahava, he's starting off with a pasuk. And I found very interesting the pasuk. Allora inizia anche qui con un altro versetto, libro di Ahava, libro di amore. Con quale versetto ha scelto? Sempre dei Salmi. Ma ahavti toratecha, quanto amo la tua Torah, kol hayom isichati, ne parlo, ne approfondisco tutto il giorno. So what is included in this book? He says first Hilchot Kriyat Shema, Hilchot Tefillah of prayer, of saying Shema, Tefillin, Mezuzah, Sefer Torah. We don't need to translate. Hilchot Tzitzit, Hilchot Brachot, Hilchot Milah. And basically the idea is that these are constant mitzvahs which cause a relationship between a person and God. That is our relationship, the Rambam says in his introduction, which are tmidi, which are constant. Therefore, when we have Brit Milah, he ends off with Brit Milah, because there's nothing more constant than a Brit Milah. Something that we had, okay? Okay, allora, quali sono le leggi incluse nel libro dell'amore? Lo Shema, la Tefillah, Tefillin, Mezuzah e Sefer Torah, Tzitzit, Berachot, tutte le benedizioni che facciamo, e Milah. Perché queste sono incluse nel libro di Ahava, l'amore? Perché queste sono le mitzvot, lui le definisce Rambam Tmidin, costanti, cose che facciamo costantemente, nel caso della Milah, che abbiamo costantemente, e quindi sono quelle le cose sulle quali si basa il nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu, perché sono cose costanti, ok? Quindi l'amore, il rapporto, si basa su cose che sono quotidiane, che sono costanti. Ok, I need 15 minutes to finish. Is it okay? Yes? 15 minutes to finish, ok. So, what was I bothered about? These are the connections that we have to God. These are the things. When we came here this morning, we're connected to God. When we said Kriyat Shema, we're connected to God. These are the special mitzvahs that are constant. Karbanot, for example. Bringing sacrifice is not every day that a Jew has to do, right? These are the constant. These are the signs that we have. Tefillin, we say, is a ot, is a sign. So, right now, I was a little wondering about the pasuk. Ma'ahavti Torah Secha, kol hayom hisichati. I was wondering on Shabbat, why this past Shabbat? Why did the Rambam pick this pasuk? The pasuk tells me how I love your Torah. The entire day I'm involved in Torah, but why did he pick this pasuk? It would seem to me you could pick so many pasukim, even Va'ahavta es Hashem Elokecha b'chol levavcha. That's the parsha Va'ahavta es Hashem talks about. It talks about tefillin. It talks about mezuzah. That's a perfect thing. And the preface is Va'ahavta es Hashem Elokecha in Shema. I told you before you only pick from Mishlei or Tehillim, but I think the Rambam could have picked a better pasuk than Torah. That's not really has allora, anything to do with that. Quello che Rav Moskowitz si è chiesto questo sabato passato, perché il Rambam ha scelto questo versetto per aprire il libro dell'amore? Ok, il versetto fa riferimento all'amore, ma l'amore di cosa? Ma ahavti Toratecha, l'amore della Torah. Le leggi della Torah non sono incluse in questo libro. Qui sono inclusi i libri, le leggi di Tefilah, di Shema. Avrebbe potuto scegliere Ve'ahavta et Hashem Elokecha, dove apre e parla con l'amore di Hashem, il nostro rapporto con Hashem, dove nello stesso versetto Parashah di Ve'ahavta et Hashem Elokecha si parla del Tefilin e Mezuzot, che sono tutte cose incluse in questo libro. Perché ha scelto questo pasuk che sembra non così legato al contenuto di questo volume? Questo si è chiesto. So that's my question. Okay. And I was really bothered by that question. And for some reason, whenever I'm bothered by a question, in the middle of Shmoneh Esrei, I get the answer. For some reason, I don't know why. La risposta è venuta durante l'Amidah. Okay. So anyways, I'm going to ask another question. You know, when a Jew asks a question of another Jew, he answers with a question. Yeah. You know that. Rubinstein said this. This we don't have to translate. You don't have to translate. You know why this is? You know why this is? Why not? Okay. I saw him in the TV when he said this to the journalist. Okay. So, with this I'm going to ask another question. The Rambam, some people say, actually Mefarshim, commentators say the Rambam, he was a great guy, but he was basically a copy and paste person. Control C, Control V. He took the Talmud. He took the Talmud. He copied and he put. If the Rambam had a computer, he could have finished up not in 10 years, but in 4 years or 2 years. Copy, paste. Just put it in the right places. I told you, categorize. Copy, paste. Copy, paste. Copy, paste. Alcuni commentatori, non approfondendo questo aspetto, erano dell'idea che il Maimonide Rambam semplicemente era bravo a copia e incolla. Sì. Prendi dal Talmud questa regola, definire e categorizzare nel posto giusto, e se avesse avuto un computer avrebbe fatto molto prima. Però non siamo d'accordo con questa definizione della sua opera. So I'm going to tell you I disagree. And most people disagree. Because it wasn't just copy and paste. It was look into the source, change it, and put it in. And I'm going to give you an example in the second halacha how he did it. I'm going to give you a perfect example. Rambam in realtà guardava le fonti, cambiava per spiegarlo in una certa maniera secondo una definizione sua e poi lo metteva dentro nella sua opera. Adesso facciamo un esempio dalla seconda halacha dell'inizio del libro di Amore sulle leggi dello Shema. Okay, I'm going to give you an example. There's a Mishnah in Brachot. We heard of the Talmud, Brachot. We heard of Mishnah, sure, right? We learn Mishnah. So it said in the Mishnah, Lama Makdimin, I don't know exact words, Vahavta, Shema Yisrael, or Vahavta, Levahaya Im Shamoah, Shema Levahaya Im Shamoah. So what does the Gemara Mishnah conclude? Kidei Sheikabal Alav et Ol Machut, Vachreze Ol Mitzvot. Something like that. Yes, okay. Sì, credo che l'abbiamo anche studiato. La Mishnah dice nel Trattato di Berachot per quale motivo si anticipa il Vahavta et Hashem Elokecha al Vahayim Shamoah. Perché questo prima di questo? Non è l'ordine che è scritto su. Allora dice perché la Mishnah spiega? Perché si accetti prima il gioco del cielo, e poi con Shema Israel il gioco del cielo, e poi il gioco delle mitzvot. Tu accetti prima di essere suddito del divino, e poi accetti le regole, non il contrario. Questo dice la Mishnah. So the Rambam says, he talks about this, umaktimim likrot parshat Shema. Now, when the Rambam says Parshat Shema, he also means Vahavta. Mm-hmm. And he changes. Mipnei sheyesh ba yichud Hashem va'avato v'talmudo. Explain it. Il Rambam invece scrive un'altra cosa. Perché si anticipa la parasha di Shema ve'ahavta et Hashem prima di Vayayim Shamoa? Perché in essa, in questa parasha, in questo brano quindi, si parla del Yichud Hashem, del monoteismo, che è solo un Dio, Echad, Ahavato, il nostro amore di Lui, Talmudò, il nostro studio di Lui, approfondimento, che è la base sulla quale si basa tutto. Ikar HaGadol she'akol talui bo. What the Rambam is doing over here, he's taking the words of the Mishnah and he's changing. There's no copy and paste. He's changing. So my question to you and to Rabbi Chazan, is the Rambam saying something different or is he explaining what the Gemara says? We don't have an answer because we don't know. We don't know the brain of the Rambam, but we could try. So that's my question. La domanda è, sta davvero dicendo qualcosa di diverso rispetto a quello che è scritto nella Mishnah o lo sta esprimendo in un'altra maniera, più spiegata per noi, quello che è davvero l'intenzione della Mishnah di dire? Non, chiaramente non possiamo entrare nella testa del Rambam, però ci possiamo provare a cercare di capire. Secondo voi, lui dice una cosa nuova o dà una spiegazione a quello che la Mishnah ha già detto prima? Una prospettiva di comprensione che possa quindi aiutare. Spiega quello che dice la Mishnah. Prima di tutto cambia. Secondo me le parole le cambia, la domanda è se cambia l'idea o cambia solo il modo di esprimere. Secondo me lo rende semplice per tutte le persone. So they're saying that he's explaining and simplifying it for us, but not changing, not changing the idea. That's what I thought also. Okay. Look up Lechem Mishnah, Avram de Biton. So there is a commentator on the Rambam, and when I saw it I was a little surprised, because I thought the same thing like you thought. His name is Avram de Biton. He wrote Lechem Mishnah. Lechem Mishnah is the book explaining the Rambam. Okay, it's printed in the classic Rambams. So he says the Rambam gives a different reason. So I was surprised because I thought like you. Biton. But that's what he says. Where is he from? Avram de Biton. We're soon going to find Morocco. Out. No, he's not from Morocco. Either from Greece or from Italy. Di Biton. Di Biton. Biton is it could be. It could be the original. No. Yeah, he lived in the 1500s or 1600s. Avram di Biton. So he said it's a different reason. But I agree with you. I agree with you. It's the same thing. But why did the Rambam really have to change? And this is the answer that I'm going to give you is going to explain also why he picked that pasuk. Are you ready? Are you excited? Yeah. Are they excited? Yes, if they're yes excited. They're very excited. Okay, you're very excited. Okay, I was excited. I was excited because, boom, in the middle of Shmon Esrei, boom, I got the answer. I was excited. I think it's the correct answer. The Rambam writes, Mipnei sheyesh ba'yichud Hashem. What he's doing is telling you the order of his books. What is Yichud Hashem? Which book is that? Sefer Hamada. That's why he changed it. What is the book of loving Hashem? Sefer Ahava. So I just told you at the beginning the Rambam was a genius in categorization. So not only did he finish Sefer Hamada with the introduction about how important Ahava is, the very second halacha that he gives, he tells you what's important that we say Shema first, and that's why I categorize Mada before Ahava, because in order to love a God, you must have the knowledge. First comes the knowledge. That's why Shema comes before the Hayim Shamoa. So I am actually writing my book just like God wrote his book through Moshe Rabbeinu in Mishneh Torah, that Sefer Devarim is also called Mishneh Torah. So you don't have to do that. You got it? I was looking for the Mishnah. Salonika. Salonika in Greece, I thought. Greece. Si. Okay. So the Lechem Mishneh asks, why does the Rambam write asks, a different reason? Right. He says a different reason, but I think that it's correct that what we're saying, it's not a different reason, it's the same reason, but you think about it, Yichud Hashem is Sefer Amada, Ahavato is Sefer Ahava, but now I'm going to explain Talmud. Okay. Allora, in realtà, il Rambam, Rav Moskowitz, anche d'accordo con voi, che non sta dando una nuova spiegazione, ma lo sta esprimendo in maniera geniale, in maniera diversa, anche in corrispondenza all'ordine stesso dei volumi della stessa opera Mishneh Torah del Rambam. Perché quando dice la prima cosa, Yihud Hashem, l'unione, l'unicità, l'unità del divino, questo è quanto è spiegato nel libro Hamadah, il primo libro dell'opera. Il secondo, la parola seconda che usa, ve'ahavato, l'amore, è il libro di Ahava. Quindi questo è l'ordine dei libri. E la terza cosa che dice Talmudò, lo studio, ora ci spiegherà qual è il senso. Now, the question that I have is, what is Talmudò? So you look into the different explanations. What do you think? I'm asking Rabbi Chazan. What do you think Talmudò is? Learning Torah? Learning Torah. And that's what everyone says. They're wrong. Ah. In my opinion, you're wrong. Don't fire Rabbi Chazan, but I think he's wrong. What allora, Talmudò non è lo studio della Torah, secondo Rabbi Moskowitz. What does Talmud Torah have to do with anything? Why is he adding Talmud Torah over here? And why? Because we look into the Pasuk and we say, Vishinantam Levanecha. Sure, perché so nello Shema è scritto riguardo lo studio della Torah, allora forse si intende sì questo. But I ask you a question, you also have in the second one, V'limadatam otam et b'neichem, you also have Talmud Torah. What's so special about Talmud Torah? What's so special? Why is he adding the word Talmud Torah? The reason he's adding the word Talmud Torah is going to explain why I picked that pasuk. Okay? I'm going to tell you. Talmud Torah over here, if we just look into the translation of the words, so let's understand. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. God is one. You should love God with all your heart. These things should be, that I'm commanding you today, should be on your heart. Which things? Which things? Which? I'm asking you. Quando diciamo, ve'avta, ama il Signore con tutto il tuo cuore, va'yuvad evreimaele, alevavecha. Queste cose che io ti sto dicendo, mettile sul tuo cuore. Quali cose? Which things? What do you think? Ma si parla dei tfilin qua. Tfilin? My tfilin? We're not talking about tfilin. No. Dopo. I don't see anything about tfilin. What are we saying? L'amore. The love, exactly. Put the love into your heart. Right. I'm telling you. What I'm just talking to you about. I'm not talking about tfilin. Il contesto è ve'ahavta, l'amore, quindi l'amore deve essere sentito nel cuore. So what is Vishinantam Levanecha? What should you teach your sons? You should teach them Torah? No. What should you teach them? Love. Love! Exactly! What does the Pasuk say? What is love? Then the Pasuk is going to tell you. You know what? It's mezuzot. Kshartam lota. Tvilin. It's tvilin. It's mezuzot. What are the laws over here? Quindi quando dice Vishinantam Levanecha, che normalmente si crede che significa insegnare la Torah, in realtà preso nel contesto di Ve'ahavta, significa metti questo amore sul tuo cuore e insegnalo, sempre lo stesso amore, ai tuoi figli. Non l'insegnamento della Torah, questo è dopo. L'insegnamento di amare Hashem, come? Attraverso i tefilin, le mezuzot e quello che segue. So it all fits in. That's why I'm picking over here mitzvot like tefillin, like mezuzot. That's why I'm picking over here. Quindi ora rientrano in questo volume queste leggi dello Shema. Secondo, quella è la conoscenza. So esatto. Prima Yehud Hashem, la conoscenza, e poi, l'abbiamo detto prima, la conoscenza porta all'amore. Perché esprimono l'amore. L'abbiamo detto. So what is my book all about? It's all about learning Torah of these specific mitzvot. Just like it says. So Talmudo does not mean that in general I should learn Torah, because what does it have to do with Sefer Ahava? It means what it said in the first paragraph of Shema, that in order to love God, you have to understand God. Once you understand God, you love God. How do you put this into action? By putting on tefillin, davening kriyat Shema, saying tefillah, and everything like that. That is Talmudo. Now we're going to, is this understood? Comprendo? Yes. Capito. Yes. Capito? Talmudò, lo studio è riferito allo studio di queste mitzvot che sono legate all'espressione di amore sentito nei confronti di Akadosh Baruch Hu, quindi rientrano nel contesto del libro di Ahava e il versetto, il pasuk con il quale lui ha introdotto il libro, Ma Ahavti Toratecha. Now, this is going to answer in the conclusion why you picked that pasuk. Ma Ahavti Toratecha Kol Hayom Yisichati. Did you get it? Mm-hmm. What is he talking about? How I love your Torah. He's talking about your Torah of these particular mitzvot that are going that to go bring every day. The ones kol hayom, right? Tmidi, that he says that the ones that are constant. The ones that are constant, and it's also this is what my book is about. My book is not teaching you about love. That's not what my book is about. It's teaching you about the Torah that is connected to Ahava, that has a connection with kol hayom. Because that's what the Rambam writes in his introduction, that these mitzvahs are tediris. But that's the part, molto bello. The Torah Secha il of versetto, learning, sì. That's what my book is all about, telling you all the laws of these different things. Allora il Rambam, introducendo questo libro di Ahava, con questo versetto, sta dicendo, ma ahavti Torah Techa, quanto amo la tua Torah, non la Torah in generale, tutte le leggi della Torah, se no sarebbe un versetto per tutte qui, 14 le opere. Quanto amo la tua Torah, la Torah che è legata alla Ahava, alle mitzvot legate all'amore, che sono a loro volta quelle costanti, che il versetto dice kol hayom isichati, le mitzvot che sono costanti tutto il giorno e tutti i giorni. Quindi è la Torah della Ahava, non è un libro di amore, è un libro della Torah, gli aspetti delle mitzvot che sono legati all'amore di Hashem. Quindi è tutto concentrato nello Shema alla fine questo. Could we say that it's all concentrated in the Shema? Yeah, and the next paragraph also has Conosci, ama, Sefer Torah and everything else. Do you have two more minutes we have? Two more minutes. We'll do it fast, and I'm going to say the whole thing. You translate it then. Okay. So we said the Rambam was a genius in categorization. I had another question, which came to me in the next day in Shemon Esrei. Okay. Kriyat Shema. Why Kriyat Shema before Tefillah? Why is it before? I was thinking that Kriya Shema is later. Tefillah, Moda'ani, you wake up in the morning right away, and the Rambam says, according to the way that they used to do it in the time of Gemara, you would say the Pasuk, when you hear the crow, you'd say the Pasuk. That comes before Tefillah. Why is Kriya Shema first? So the Rambam answers this question himself by saying, Pa'amayim b'chol yom korim Kriya Shema, ba'erev u'baboker. That's how he begins. And he's beginning this because he's answering the question, what comes first, Ma'ariv or in Jews, or Shabbat? What comes first, the evening? So yes. The Rambam answers the question because what comes first, Ba'erev, is Kriya Shema. Tefillah, the Rambam says later, Tefillah we do Karbanot. Karbanot, there's a rule, Halayla Holech Acharayom. So therefore, that's why our Sidur actually starts with Shacharit, because it should start by Ma'ariv, right? Like we do Rosh Hashanah in the new printing, something like that. However, it starts with Shacharit because Alayla Acharayom. So that's when the Rambam is writing Pamayim Chol Yom Koren Kriya Shema Be'erev Baboker. He's explaining why I picked Kriya Shema before Tefillah. Molto bello. Allora, in sintesi, un'altra domanda che si è posto Rav Moskowitz. Hilchot Kriya Shema. Il Rambam apre il libro della Ahava, dell'amore, come abbiamo spiegato, con le leggi dello Shema, e la seconda parte leggi di Tefillah. In teoria dovrebbe essere il contrario. Perché la tefilah è una mitzvah che si inizia con la tefilah, il giorno inizia con la tefilah, e poi nel durante si dice anche lo Shema. Allora lui spiega una cosa interessante. Due volte al giorno abbiamo l'obbligo di dire lo Shema. Quali sono le due volte? La sera e la mattina. Non c'è scritto mattina e sera, ma sera e mattina. Cioè, con la sera, come arriva la sera, come il giorno ebraico normalmente segue prima sera e poi segue mattina, abbiamo prima l'obbligo della sera dello Shema e poi l'obbligo della mattina dello Shema. Per quanto riguarda la tefilah, come noi abbiamo anche studiato prima, in passato, la tefilah segue la struttura delle korbanot, le offerte dei sacrifici nel Beit HaMikdash. Nelle korbanot c'è una regola che alayla olecha char hayom, per ciò che riguarda questioni sacre delle korbanot, la notte segue il giorno, non come normalmente per l'ebraismo, che il giorno segue la notte, ma inizia il periodo delle 24 ore, per ciò che riguarda le korbanot, dalla mattina. Allora significa che la tefilah in realtà segue un ordine di mattina prima, perché la tefilah segue la struttura delle korbanot. Allora quando noi iniziamo la nostra giornata ebraica, che inizia dalla sera, la prima mitzvah che ci viene incontro in questo schema è lo Shema. La tefilah invece inizia la mattina, come, e per questo i libri di tefilah aprono con Shacharit. In teoria, se il giorno ebraico inizia da Arvit, Dovrebbe iniziare dalla sera prima, invece la tefilà, seguendo la struttura delle korbanot, inizia con Shacharit, per questo motivo. E questo è anche il motivo per cui le leggi dello Shema precedono le leggi dello Shema nell'opera del Rambam. Finito, bambino. Thank you very much. Thank you very much. Razak. I hope you enjoyed listening as much as I enjoyed giving it. Okay, very good.